ScopUp Bologna è il percorso di formazione, networking e incubazione di impresa promosso da Conf Cooperative e Kilowatt in collaborazione con Enilbanca, Irecop, Fondo Sviluppo, che si terrà nel 2021. ScopUp Bologna è un percorso che vuole rappresentare un diverso modello di sviluppo e competitività delle imprese, che appunto si basa sulla sostenibilità e i 17 obiettivi dell'agenda ONU dello sviluppo sostenibile. C'è una call aperta fino al 10 di gennaio, se non sbaglio, a chi è rivolto? Sì, esatto, la call è aperta fino al 10 di gennaio e ScopUp Bologna si rivolge a tutti quei progetti che sono ancora in uno stato, diciamo, embrionale, che sono un'idea di impresa, che vogliono verificare se la propria idea può andare sul mercato, che vogliono entrare in contatto con partner e clienti e che vogliono strutturare i primi passi per fare della propria idea un lavoro. La cosa importante da ribadire è che appunto ScopUp si rivolge a idee che hanno l'obiettivo di generare un cambiamento sostenibile nella società. Questo perché il focus di ScopUp appunto è la creazione di lavoro, il sostegno di reddito, anche per quei progetti che molto spesso siamo portati a pensare che non siano capaci di affermarsi come occupazione principale. Ci sono dei valori che sottolineate, che sono l'innovazione, la contaminazione, soprattutto però il mutualismo, la collaborazione, la sostenibilità sociale e ambientale, concetti di cui si parla molto negli ultimi tempi, però insomma non sempre li vediamo applicati al mondo del lavoro. Esatto, molto spesso si pensa che i propri valori, appunto le proprie passioni, la collaborazione, il mutualismo non possano diventare la propria occupazione principale. ScopUp nasce proprio per scardinare questo pregiudizio e sostenere un nuovo paradigma che appunto si basa sulla creazione di reddito per tutte e per tutti e sulla creazione di progetti che possano poi diventare un lavoro. Per questo ScopUp non ha nessuna barriera all'ingresso, si rivolge a chiunque, quindi ad associazioni, gruppi informali, a imprese già formate, ma anche ad aspiranti imprese che vogliono appunto far crescere la loro idea sempre nel rispetto di questi valori. Pensiamo che soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, la cooperazione possa veramente rappresentare la chiave di volta e un nuovo modello, l'unico modello possibile attraverso cui andare avanti. Che tappe ci sono in questo percorso? È un percorso completamente gratuito e questo è importante ribadire, perché appunto non vogliamo che ci sia nessuna barriera all'ingresso. L'unica cosa di cui bisogna disporre è un po' di tempo. Perché? Perché la call è aperta fino al 10 gennaio. Entro il 13 gennaio si saprà chi passerà la prima fase di selezione, che avverrà il 21 e il 22 gennaio in modalità online, date appunto le ultime circostanze. Il percorso vero e proprio inizierà a febbraio attraverso la selezione di 8 progetti che invece avranno modo di seguire tutta la formazione e durerà fino alla primavera. E durante questo percorso saranno sia occasioni di formazione collettiva che colloqui di approfondimento one to one, che incontri di networking con sia esperti di settore che dirigenti cooperativi individuati all'interno dell'ecosistema di Conf Cooperative, che saranno in grado di mettere in collegamento appunto i progetti partecipanti con altre imprese del territorio, imprese cooperative ovviamente. Il percorso si concluderà ad aprile del 2021. Magari se qualcuno è interessato dell'ascolto, come può fare per avere più informazioni e partecipare? Più informazioni si trovano sul sito ScopUp Bologna. Potete scrivere all'indirizzo mail di ScopUp, che è copupbo@confcooperative.it,